ребята супер кастро нам капи. Sempre più svelto, sempre più scaltro. Un colpo dopo un altro, metto il codice e risalto. Se vendo no, grazie, prediligo l'asfalto. Autoproduzioni, doppio malto per il palco. Puntano in alto, partendo dal punto più basso. Metriche a prova di furto con scasso. Hip hop il ribasso, perché ha successo. La ricca adesso butta la sua anima nel cesso. Hip hop pregresso, se non lo sai, dai un'occhiata a quello che è successo. Spessore e memoria, lungo la storia di questa saga. Rispetto e studia il treno che dal ghetto porta al centro il messaggio della strada. Questa strada, la ricca adesso butta la sua anima nel cesso. Tipo pregresso, se non lo sai, dai un'occhiata a quello che è successo. Spessore e memoria, lungo la storia di questa saga. Rispetto e studia il treno che dal ghetto porta al centro il messaggio della strada. Questa strada. È meglio vivere il presente o regredire al 95. Le prime firme, i primi pantoni. 96, 97 a Lecce Monteroni. Ho gustato dopo al sole con Salentini. Terroni conterranei e di tutta la mia isola. E spingevo Ragusano coi miei soci senza virgola. Come tutto di un fiato, come tutta la penisola. Come sentire l'odore del movimento che adesso latita. La ricca adesso butta la sua anima nel cesso. Tipo pregresso, se non lo sai, dai un'occhiata a quello che è successo. Spessore e memoria, lungo la storia di questa saga. Rispetto e studia il treno che dal ghetto porta al centro il messaggio della strada. Questa strada. Adesso sento solo l'agrodore dello schianto. Gomma bruciata su un asfalto che non ha retto. Ha rotto il giocattolo ed il tuo retto ha provocato lo spacciolo. Vendete come fosse di un altro lotto. Fa da basso prezzo come un tocco di Marocco. Attento per te, produttore dentro al corpo. Per me no come Lugraff. Tutte le mattine mi alzo e canto, ma intorno c'è lo sconto. Tutti insinzando con la fissa del soldo. Io penso alla mia panza mentre impasto mezzo grammo. Metro come telegrafo di suoni e cuori. Cuori periferici, giusti umori. Guardo da fuori, dentro i rumori di spari e motori. Sporchi interessi gestiti a galloni, a sfondi bigliettoni. Progettano canzoni sopra i tavoli. Sono il pizzo per gli anonimi, creano la piazza per gli stupidi. Codici per renderci ermetici. Codici, codici per selezionare critici. La ricca adesso butta la sua anima nel cesso. Tipo pregresso, se non lo sai, dai un'occhiata a quello che è successo. Spessore e memoria, lungo la storia di questa saga. Rispetto e studia il treno che dal ghetto porta al centro il messaggio della strada. Questa strada. La ricca adesso butta la sua anima nel cesso. Tipo pregresso, se non lo sai, dai un'occhiata a quello che è successo. Spessore e memoria, lungo la storia di questa saga. Rispetto e studia il treno che dal ghetto porta al centro il messaggio della strada. Questa strada. Rispetta e studia il treno che dal ghetto porta al centro il messaggio della strada. Questa strada.